Illustrissimo e reverendissimo signore, padrone mio osservandissimo, il servitore più fidato di vostra signoria si accinge a dare conto di quanto accade in questa sperduta landa che da un anno a questa parte sembra essere divenuta focolaio d'ogni diatriba. Da quando, 8 mesi fa, il monaco agostiniano Martin Lutero ha affisso le sue famigerate tesi al portale della cattedrale, il nome di Wittenberg ha viaggiato in lungo e in largo sulla bocca di tutti. Giovani studenti dagli stati limitrofi affluiscono in questa città per ascoltare dalla viva voce del predicatore quelle incredibili teorie. In particolare la predicazione contro la compravendita delle indulgenze sembra riscuotere il più grande successo presso quelle giovani menti aperte alle novità. Ciò che fino a ieri era pratica comune e indiscussa e ricevere la remissione dei peccati in cambio di una pia donazione alla Chiesa, oggi sembra essere criticata da tutti come fosse uno scandalo innominabile. Ieri, come ogni domenica, ha predicato dal pulpito una tesi, a mio avviso, ancor più pericolosa. Non si devono paventare eccessivamente le conseguenze di una scomunica ingiusta, poiché essa riguarda solo la comunione esteriore con la Chiesa e non quella interiore. Quest'ultima, infatti, riguarda solo il legame di Dio con il fedele, che nessun uomo può dichiarare sciolto, nemmeno il Papa. Tanto più una scomunica ingiusta non può nuocere all'anima, e se sopportata con rassegnazione filiale verso la Chiesa, può anche divenire un merito prezioso. Se dunque qualcuno è scomunicato ingiustamente, non deve sconfessare con parole e azioni la causa per la quale è stato scomunicato. Deve sopportare pazientemente la scomunica, quando anche dovesse morire scomunicato e non essere sepolto nella terra consacrata, poiché queste cose sono di gran lunga meno importanti che la verità e la giustizia. Beato e benedetto colui che muore in una scomunica ingiusta, poiché per il fatto che subisce questa aspra punizione per amore della giustizia, che egli non ha voluto abbandonare, riceverà per grazia l'eterna corona della salvezza. Lutero sente l'odore della scomunica per se stesso, così come la volpe fiuta l'odore dei segugi. Egli sta affilando le sue armi dottrinali e cercando alleati per il prossimo futuro. In particolare, credo cerchi l'appoggio del suo signore, il principe elettore Federico di Sassonia, il quale non ha ancora palesato pubblicamente la propria disposizione d'animo nei confronti di frate Martino. Egli vorrebbe togliere dalla Santa Sede il suo baluardo maggiore, l'arma della scomunica. È allo stesso modo evidente che Lutero non oserà mai mettere per iscritto questa sua tesi, consapevole della enormità che rappresenta e del pericolo che ne potrebbe derivare per la sua persona. Ho quindi ritenuto opportuno farlo io, affinché la signoria vostra possa prendere in tempo tutte le precauzioni che riterrà necessarie a fermare questo frate del diavolo. L'accusa ufficiale di eresia rivolta contro il frate Martin Lutero dovrebbe indurre il principe elettore Federico a prendere infine posizione nei confronti del monaco. Il 25 agosto è arrivato a Wittenberg come professore di greco Filippo Milantoni, giunto dalla prestigiosa Università di Tubinga. Io credo che mai in una università dell'impero si sia visto un professore più giovane di lui. Ha soltanto 21 anni. Quei due professori sono sicuramente un'arma potente nelle mani dell'elettore di Sassonia, dal momento che sono così solidali, per quanto così diversi. Ognuno dei due fornisce all'altro ciò che a quello mancava, per divenire un vero pericolo per Roma. Lutero è ardito ed energico, per quanto rozzo e impulsivo, mentre Melantone è coltissimo e raffinato, ma più giovane e delicato, adatto agli scontri dottrinali piuttosto che a quelli campali. Il primo parto di questo pericoloso connubio sarà certamente la Bibbia in tedesco, alla quale si dice stiano lavorando di concerto e per la quale le conoscenze di Melantone saranno come manna dal cielo, poiché so che vostra signoria suole avercare le particolari informazioni sulle cose importanti, nel tempo a venire continuerò a seguire con attenzione i due dottori, nell'unica speranza di poterle essere ancora utili. Bacio umilmente le mani di vostra signoria illustrissima e reverendissima. Di Wittenberg, al 10 di ottobre 1518, il fedele osservatore di vostra signoria, Q. Il coniatore, Frankenhausen, Turingia, 15 maggio 1525, pomeriggio. Elias, Magister Thomas è sfinito, lo carico sulle spalle. Dobbiamo nasconderlo. Dov'è Dio onnipresente? Il suo gregge al macello. Ma voi, oh mio Dio, Magister! Zitta! Il Magister non deve essere scoperto. Non parlare. Va via e mettiti in salvo. Elias, cerchiamo un portone aperto dove nascondere il Magister. Merda, sono tutti chiusi. Elias, Elias, qui. Sorella, portiamo un ferito. Abbiamo bisogno di un letto e di acqua. In nome di Dio. Per qualche ora soltanto, sorella. Che cosa sta dicendo? Mi sa che neanche si è accorta che siamo qui. Non perdiamo tempo. Andiamo sopra, presto. Un letto. Elias, stendi Magister Thomas. Dobbiamo trovare una via di fuga. La finestra, da sulla strada. Ma il salto è troppo alto. Siamo al primo piano, c'è almeno un solaio. Il soffitto. Vediamo il solaio. Pasto di tarli, ma regge lo stesso. Il tetto è bassissimo, ma almeno c'è la paglia. Bisogna trovare Jacopo e Mattia, sì. Sì, vado, vado. No, vado io. Tu resta con Magister. Salire qui è impossibile per Magister. Le sacche delle lettere. Cavalieri! Elias, attento! Cazzo, l'hanno visto! Elias! No! Fatevi sotto, figli di cagna! Omnia sunt communia, figli di cana! Q, una produzione in crowdfunding del collettivo Mühlhausen. Riadattamento radiofonico del romanzo di Luther Bliss. Seconda puntata, Omnia sunt communia. Sostieni il progetto Q, il radioromanzo, tramite il crowdfunding. Visita il sito www.q.teatridellaviscosa.com oppure cercaci sul sito www.produzionidalbasso.com. Dobbiamo scappare. Magister! Magister, ascoltami! Dobbiamo andare! Stanno arrivando! Per Dio, Magister! Gli afferro le spalle. Cosa credi di fare? Basta martirio. Vattene. Pensa a salvarti. Va. Non dimenticare le sacche. Brutta vecchiaccia schifosa. Questa strega non c'ha un cazzo da nascondere. Le sacche. Devo nascondermi. Solo un'occhiata poi andiamo via. Tanto qui non troviamo niente. Cristo. Una sacca. Ma in culo la sacca. Nel sottotetto posso spiarli. Ah. Ma c'è qualcun altro? E chi è questo? Chi sei? È casa tua questa? Bene, bene, bene. Gunther, guarda un po' cosa abbiamo qui. Hanno visto la sacca. Beh, qui c'è solo carta, monete e niente. Che roba è? Te sai leggere? Ah, io no. Io neanche. Forse è roba importante. Va giù a chiamare il capitano. Cos'è? Mi dai gli ordini per caso? Perché non ci vai te? Beh, perché sta borsa l'ho trovata io. Ma togliti di mezzo. Hai capito? Sempre a discutere. L'ho trovata prima io e ci devi andare te, capitano. Ci devi andare. Dai, litigate. E magari ammazzate di carogne. Non sanno che cosa si trovano tra le mani. D'accordo, vado io a chiamare il capitano. Ma non perché me l'hai ordinato tu, hai capito? Speriamo che nemmeno il capitano sappia leggere. Altrimenti è finita. Per Giove, è Thomas Munzer, il coniatore. Anzi, la monetina. Paga raddoppiata, Fogne. Portatelo via. Alla sacca ci penso io. Così. Dio onnipresente non è più qui, né in nessun luogo. 16 maggio 1525. Sono ancora qui. Da quanto tempo se ne sono andati? Mi si è tutto addormentato, cazzo. Devo togliermi da questo tiro. Se saltando sui tetti arrivo alle mura sono vivo. Devo saltare. Ma mi spezzo il collo. Devo trovare un posto dove atterrare. Che puzza di merda. Merda. Letame. Proprio qui sotto. Sì, lo faccio. Oh. Oh, che schifo. Meglio la merda che l'anzichenecchi. Cazzo. Vivo. Incrostato di merda e fango. Vivo. Il corpo che brucia in ogni sua parte. Vivo. Solo. I miei compagni, il maestro, Elias. Solo. I volti dei fratelli, cadaveri stesi nella piana. Ancora la spada. È una delle sacche del maestro. Chissà che aspetto devo avere. Non so. Non lo sarò mai più. Pensare, pensare. Dimenticare l'orrore e pensare. Sì. Poi muoversi e dimenticare l'orrore. Poi ancora distruggere l'orrore e vivere. Dunque, cibo, soldi, vestiti, un rifugio. Sì, sì, un rifugio, lontano da qui, un posto sicuro dove avere notizie e rintracciare i fratelli scampati. Allo spiedo le ho fatte. Ho fatto di meglio io. Me ne sono chiamate 5 mentre saccheggiavamo la città. E tra una e l'altra non ho mai smesso di ammazzarli, quei pezzenti. Una di quelle troie mi ha anche mezzo staccato un orecchio con un morso. Guardate qui. E tu che hai fatto? Le ho tagliato la gola, e che cazzo. Fatica sprecata, testa di merda. Aspettavi un giorno e te la dava per riavere il cadavere del marito come tutte le altre. Giuro che è stata la vittoria più facile della mia carriera. C'era solo da sparargli nella schiena e infilzarli come piccioni. Però che spettacolo. Teste che saltavano, gente che pregava in ginocchio. Mi son sentito un cardinale. Parole sante. Vado a pisciare. Lasciatemi un goccio di quella roba. Ehi, Kurt, vedi di andarla a fare fuori portata, che non voglio dormire con la puzza del tuo piscio sotto il naso. Sei così sbronzo che non ti accorgeresti neanche se ti cagassi sulla faccia. Vaffanculo, stronzo. Non avevo mai ucciso un uomo. Col! Dove cazzo? No! Cristo. Non avevo mai ucciso. Non avevo mai ucciso un uomo.